9. La piccola Alba. Alba nacque in piedi, segno di buona fortuna. Sua nonna Clara le cercò e trovò sulla schiena una macchia a forma di stella che è una caratteristica degli esseri che nascono con la capacità di vivere felici. Oh, non bisogna preoccuparsi per questa bambina, avrà buona fortuna e sarà felice. Inoltre avrà una bella pelle perché la si eredita e io alla mia età non ho rughe e non mi è venuto mai nemmeno un foruncolo, aveva predetto Clara 2 giorni dopo la nascita. Per questi motivi non si preoccuparono di addestrarla alla vita, dato che gli astri si erano combinati per dotarla di tanti doni. Il suo segno era il leone. La nonna studiò la sua carta astrale e segnò il suo destino con inchiostro bianco su un album di carta nera, dove incolò anche qualche ciocca verde dei suoi primi capelli, le unghie che le aveva tagliato poco dopo la nascita, e diverse fotografie che permettono di ammirarla così com'era. Un essere straordinariamente piccolo, quasi calvo, rugoso e pallido, senza altri segni di intelligenza umana che i suoi occhi neri, brillanti, con una saggia espressione adulta sin dalla culla. Così li aveva il suo vero padre. Sua madre voleva chiamarla Clara, ma sua nonna non era favorevole a ripetere i nomi in famiglia perché la cosa seminava confusione nei quaderni su cui annotava la vita. Dunque cercarono un nome nel dizionario dei sinonimi e scoprirono il suo, che è l'ultimo di una catena di parole luminose che vogliono dire la stessa cosa. Anni dopo Alba si sarebbe tormentata pensando che quando lei avesse avuto una figlia non ci sarebbe stata più un'altra parola con lo stesso significato che potesse andarle bene come nome. Ma Blanca le suggerì l'idea di usare lingue straniere, il che offre una grande varietà. Alba era stata lì per nascere su un treno a scartamento ridotto alle 3 del pomeriggio in pieno deserto. Sarebbe stato fatale per la sua carta astrologica. Fortunatamente seppe trattenersi dentro sua madre ancora molte ore e riuscì a nascere nella casa dei suoi nonni, nel giorno, nell'ora e nel luogo che erano più convenienti al suo oroscopo. Sua madre era arrivata alla grande casa dell'angolo senza preavviso, scarmigliata, coperta di polvere con le occhiaie e piegata in due dal dolore delle contrazioni con cui Alba spingeva per uscire. Aveva bussato alla porta disperata e quando le avevano aperto aveva attraversato la casa come una tromba d'aria senza fermarsi fino alla stanza da cucito dove Clara stava finendo l'ultimo perfetto vestito per la futura nipote. Lì Blanca era crollata, dopo il suo lungo viaggio, senza avere il tempo di dare spiegazioni perché il ventre le si era schiantato in un profondo sospiro liquido e aveva sentito che tutta l'acqua del mondo le scorreva tra le gambe con un gorgoglio furioso. Alle grida di Clara corsero i servitori e Jaime, che in quei giorni stava sempre in casa intorno ad Amanda. La trasportarono nella camera di Clara e mentre la sistemavano sul letto e le strappavano con forza i vestiti di dosso, Alba cominciò a sporgere la sua minuscola umanità. Lo zio Jaime, che aveva assistito a qualche parto in ospedale, l'aiutò a nascere afferrandola saldamente per le natiche con la mano destra, mentre con la sinistra, a tentoni per via del buio, cercava il collo della creatura per liberarlo dal cordone ombelicale che la strozzava. Intanto Amanda, che era arrivata di corsa, richiamata dal rumore, schiacciava il ventre di Blanca con tutto il peso del suo corpo e Clara, china sul viso sofferente della figlia, e le avvicinava al naso un colino da tè coperto da uno straccio su cui facevano cadere qualche goccia di etere. Alba nacque in fretta, Jaime le tolse il cordone dal collo, la tenne in aria a testa in giù e con due sonore sculacciate. La iniziò alla sofferenza della vita e alla meccanica della respirazione, ma Amanda, che aveva letto dei costumi delle tribù africane e predicava il ritorno alla natura, le strappò la neonata dalle mani e la depose con amore sul ventre tiepido della madre, sul quale trovò un po' di consolazione alla tristezza di nascere. Madre e figlia rimasero a riposare nude e abbracciate, mentre gli altri pulivano le tracce del parto e si affaccendavano con le lenzuola nuove e i primi pannolini. Nell'emozione di quei momenti, nessuno badò alla porta socchiusa dell'armadio, da cui il piccolo Miguel osservava la scena paralizzato dalla paura, fissando per sempre nella sua memoria la vista della gigantesca palla solcata da vene, terminante in un ombelico sporgente da dove era uscito quell'essere paonazzo avvolto in un'orrenda trippa bluastra. Iscrissero Alba nel registro civile e nei libri della parrocchia col cognome francese del padre, ma lei non se ne servì mai, perché quello di sua madre era più facile da sillabare. Suo nonno Esteban Trueba non vide mai di buon occhio questa cattiva abitudine, perché, come diceva, ogni volta che gliene davano l'occasione, si era dato un grande fare perché la bambina avesse un padre noto e un cognome rispettabile e non avesse dovuto usare quello della madre, come se fosse stata figlia della vergogna e del peccato. Non permise neppure che si dubitasse della legittima paternità del conte e continuò ad aspettare, contro ogni logica, che prima o poi si sarebbe notata l'eleganza dei gesti e il fascino sottile del francese nella silenziosa e goffa nipote che gironzolava per casa sua. Nemmeno Clara alluse mai alla faccenda, sino a molto tempo dopo, una volta in cui vide la bimba intenta a giocare fra le statue distrutte del giardino. E si rese conto che non somigliava a nessuno della famiglia e nemmeno a Jean de Satigny. Da chi avrà preso questi occhi da vecchio? Chiese la nonna. Gli occhi sono del padre, rispose Blanca distrattamente. Pedro Terzo Garcia, suppongo, disse Clara. Certo, ammise Blanca. Fu l'unica volta in cui si parlò dell'origine di Alba in seno alla famiglia, perché, come Clara scrisse, la cosa non aveva assolutamente importanza, visto che comunque Jean de Satigny era scomparso dalle loro vite. Non seppero mai più niente di lui e nessuno si prese il disturbo di cercare il suo recapito, non fosse altro che per legalizzare la situazione di Blanca, che non aveva le libertà di una nubile e aveva tutte le limitazioni di una donna sposata, ma non aveva marito. Alba non vide mai un ritratto del conte perché sua madre non aveva lasciato alcun angolo della casa inesplorato fino a distruggerli tutti, compresi quelli in cui appariva al suo braccio il giorno delle nozze. Aveva preso la decisione di dimenticare l'uomo con cui si era sposata e di far conto che non esistesse. Non parlò più di lui e non diede nemmeno una spiegazione per la sua fuga dal domicilio coniugale. Clara, che aveva trascorso 9 anni muta, conosceva i vantaggi del silenzio, sicché non fece domande alla figlia e collaborò all'impresa di cancellare Jean de Satigny dai ricordi. Ad Alba dissero che suo padre era stato un nobile gentiluomo, intelligente e distinto, che aveva avuto la disgrazia di morire di febbre nel deserto del nord. Fu una delle poche bugie che dovette subire nella sua infanzia, perché in quanto al resto fu in stretto contatto con le prosaiche verità della vita. Suo zio Jaime si assunse il compito di distruggere il mito dei bambini che nascono sotto i cavoli o vengono portati da Parigi, dalle cicogne, e suo zio Nicolas quello dei re magi, delle fate e del babau. Alba aveva incubi in cui vedeva la morte di suo padre, sognava un uomo giovane, bello e tutto vestito di bianco, con scarpe di vernice dello stesso colore e una paglietta che camminava nel deserto in pieno sole. Nel sogno, colui che camminava accorciava il passo, vacillava, andava via via più piano, inciampava e cadeva, si alzava e tornava a cadere, bruciato dal caldo, dalla febbre e dalla sete. Si trascinava in ginocchio sull'ardente sabbia per un tratto, ma infine rimaneva stecchito nell'immensità di quelle dune livide, con gli avvoltoi che volavano in cerchio sul suo corpo inerte. L'aveva sognato tante volte che rimase stupita quando molti anni dopo dovette recarsi a riconoscere il cadavere di chi credeva fosse suo padre in un deposito dell'obitorio municipale. Allora Alba era una giovane e coraggiosa, di carattere audace e abituata alle avversità, sicché ci sarebbe andata da sola. L'accolse un assistente in camice bianco che aprì la porta del gigantesco frigorifero ed estrasse un ripiano sul quale giaceva un corpo gonfio, vecchio e di colore bluastro. Alba lo guardò attentamente, senza trovare alcuna somiglianza con l'immagine che aveva sognato tante volte. Le sembrò un tipo comune e banale, con l'aspetto di un impiegato delle poste. Osservò le mani, non erano quelle di un nobile gentiluomo fine e intelligente, bensì quelle di uno che non avesse niente di interessante da raccontare. Ma i suoi documenti erano una prova che quel cadavere blu e triste era Jean de Satigny, il quale non era morto di febbre fra le dune dorate dei suoi incubi infantili, ma semplicemente di apoplessia mentre in vecchiaia attraversava la strada. Ma tutto questo accadde molto dopo, ai tempi in cui Clara era viva, quando Alba era ancora una bambina, e la grande casa dell'angolo era un mondo chiuso dove lei crebbe protetta perfino dai suoi incubi. Alba non aveva ancora compiuto 2 settimane di vita quando Amanda se n'era andata dalla grande casa dell'angolo. Aveva recuperato le forze e non le era stato difficile indovinare il desiderio nel cuore di Jaime. Aveva preso per mano il suo fratellino ed era partita così come era arrivata, senza rumore e senza promesse. La persero di vista e l'unico che avrebbe potuto cercarla non lo fece, per non ferire il fratello. Solo casualmente Jaime l'avrebbe rivista molti anni dopo, ma allora era ormai tardi per tutte e due. Dopo che se ne fu andata, Jaime affogò la disperazione nello studio e nel lavoro. Tornò alle sue antiche abitudini da anacoreta e non lo si vedeva quasi mai in casa. Non pronunciò più il nome della ragazza e si allontanò per sempre da suo fratello. La presenza della nipotina addolcì il carattere di Esteban Trueba. Il cambiamento era stato impercettibile, ma Clara l'aveva notato. Lo rivelarono piccoli sintomi: la luce nel suo sguardo quando vedeva la bimba, i costosi regali che le faceva, la pena se la udiva piangere. Questo tuttavia non lo avvicinò a Blanca. I rapporti con sua figlia non erano mai stati buoni e dal suo funesto matrimonio in poi si erano così deteriorati che solo la cortesia inevitabile che Clara aveva imposto permetteva loro di vivere sotto lo stesso tetto. In quell'epoca la casa dei Trueba aveva quasi tutte le stanze occupate e quotidianamente si preparava la tavola per i familiari, gli invitati e un posto in più per chi si sarebbe potuto presentare senza preavviso. La porta principale era aperta in permanenza perché entrassero e uscissero quelli che vivevano insieme e i visitatori, mentre il senatore Trueba si sforzava per riformare i destini del suo paese, sua moglie navigava abilmente nelle acque agitate della vita di società e nelle altre sorprendenti del suo cammino spirituale. L'età e la pratica avevano accentuato la capacità di Clara di indovinare l'occulto e di muovere le cose a distanza. I momenti di esaltazione la portavano con facilità a stati di trance, durante i quali poteva spostarsi seduta sulla sua seggiola per tutta la camera, come se ci fosse stato un motore nascosto sotto il sedile. In quei giorni un giovane artista affamato, accolto in casa per misericordia, pagò la sua ospitalità dipingendo l'unico ritratto di Clara che esiste. Molto tempo dopo, il miserrimo artista divenne un grande maestro e oggi il quadro si trova in un museo di Londra, come tante altre opere d'arte che se ne andarono dal paese all'epoca in cui si dovettero vendere i mobili per dar da mangiare ai perseguitati. Sulla tela si può vedere una donna matura, vestita di bianco, con i capelli d'argento e una dolce espressione da trapezista sul volto, in posizione di riposo su una poltrona, sospesa sopra il livello del pavimento, galleggiante fra tendaggi a fiori, un orciolo che vola capovolto e un gatto grasso e nero che guarda seduto come un gran signore. Influenza di Chagall, dice il catalogo del museo, ma non è così. Corrisponde esattamente alla realtà che l'artista vide nella casa di Clara. Era quella l'epoca in cui agivano impunemente le forze occulte della natura umana e il buon umore divino, provocando uno stato di emergenza e di sussulti nelle leggi della fisica e della logica. Le comunicazioni di Clara con le anime erranti e con gli extraterrestri avvenivano mediante la telepatia, i sogni e un pendolo che lei usava a tal fine, tenendolo sospeso in aria su una serie di caratteri alfabetici che collocava in ordine sopra il tavolo. I movimenti autonomi del pendolo indicavano le lettere e formavano i messaggi in spagnolo e in esperanto, dimostrando così che erano le uniche lingue che interessavano gli esseri di un'altra dimensione e non l'inglese, come sosteneva Clara nelle lettere agli ambasciatori delle potenze anglofone, senza che loro le rispondessero mai, così come non lo fecero neppure i successivi ministri dell'educazione ai quali si rivolse per esporre la sua teoria che invece di insegnare l'inglese e il francese nelle scuole, lingue da marinai, commercianti e strozzini, i bambini venissero obbligati a studiare l'esperanto. Alba trascorse la sua infanzia fra diete vegetariane, arti marziali giapponesi, danze del Tibet. respirazione yoga, rilassamento e concentrazione col professor Hauser e molte altre tecniche interessanti, senza contare gli apporti alla sua educazione dei due zii e delle incantevole signorine Mora. Sua nonna Clara si affaccendava per mantenere in moto quell'immenso carrozzone pieno di allucinati in cui si era trasformata la sua casa, sebbene lei stessa non avesse alcuna abilità domestica e disdegnasse le quattro operazioni al punto da dimenticare come si fanno le addizioni. Sicché l'organizzazione della casa e i conti finirono in modo naturale nelle mani di Blanca, che divideva il suo tempo tra le fatiche da maggiordomo di quel regno in miniatura e il suo laboratorio di ceramica in fondo al cortile, ultimo rifugio ai suoi dispiaceri, dove faceva scuola ai mongoloidi come alle signorine e costruiva i suoi incredibili presepi di mostri che contro ogni logica si vendevano come pane appena sfornato. Fin da piccolissima Alba aveva avuto l'incarico di disporre fiori freschi nei vasi. Apriva le finestre per far entrare in abbondanza la luce e l'aria, ma i fiori non duravano fino alla sera perché il vocione di Esteban Trueba e i suoi colpi di bastone avevano il potere di spaventare la natura. Al suo passaggio gli animali domestici fuggivano e le piante avvizzivano. Blanca coltivava un albero della gomma portata dal Brasile, un arbusto misero e timido il cui unico pregio era il prezzo. Si comprava a foglie. Quando sentivano arrivare il nonno, chi si trovava più vicino all'albero correva a metterlo in salvo sulla terrazza perché non appena il vecchio entrava nella stanza, la pianta abbassava le foglie e cominciava a trasudare dal fusto un pianto biancastro come lacrime di latte. Alba non andava a scuola perché sua nonna diceva che una persona così favorita dagli astri come lei aveva bisogno solo di saper leggere e scrivere e quello poteva impararlo in casa. Si affrettò tanto a insegnarle l'alfabeto che a 5 anni la bambina leggeva il giornale all'ora della colazione per discutere le notizie con suo nonno e a 6 aveva scoperto i libri di magia nei bauli incantati del suo prozio Marcos ed era entrata in pieno nel mondo senza ritorno della fantasia. Non si preoccuparono nemmeno della sua salute perché non credevano nei profitti delle vitamine e dicevano che le vaccinazioni andavano bene alle galline. Inoltre sua nonna le aveva letto le linee della mano e le aveva preannunciato che avrebbe avuto una salute di ferro e una lunga vita. L'unica attenzione frivola che le prodigarono fu quella di pettinarla con Bairum per attenuare il tono verde scuro che avevano i suoi capelli alla nascita, nonostante il senatore Trueba avesse detto che bisognava lasciarglieli così perché era l'unica che avesse ereditato qualcosa dalla bella Rosa. Sebbene sfortunatamente fosse solo il colore marino dei capelli. Per fargli piacere, Alba aveva interrotto durante l'adolescenza lo stratagemma del Bairum e si sciacquava la testa con infusi di prezzemolo che permisero al verde di ricomparire in tutta la sua frondosità. Il resto della sua persona era piccolo e anodino, a differenza della maggior parte delle donne della sua famiglia che, quasi senza eccezione, erano state splendide. Nei pochi momenti di ozio che Blanca aveva per pensare a se stessa e a sua figlia, rimpiangeva che fosse una bambina solitaria e silenziosa, senza compagni della sua età per giocare. In realtà, Alba non si sentiva sola, al contrario, talvolta sarebbe stata molto felice se avesse potuto eludere la chiaroveggenza di sua nonna, l'intuizione di sua madre e la baraonda di gente stramba che costantemente appariva, spariva e riappariva nella grande casa dell'angolo. Anche Blanca si preoccupava perché sua figlia non giocava con le bambole, ma Clara sosteneva sua nipote con l'argomento che quei piccoli cadaveri di porcellana, con i loro occhietti che si aprivano e si chiudevano e la loro perversa bocca a cuore, erano ripugnanti. Lei stessa confezionava esseri informi con gli avanzi della lana che usava per fare maglie ai poveri. Erano creature che non avevano nulla di umano e per questo erano più facili da collare, tenere in braccio, far loro il bagno e poi gettarle nell'immondizia. Il giocattolo preferito della bimba era la cantina. Per via dei topi, Esteban Trueba aveva ordinato che mettessero una sbarra alla porta, ma Alba si infilava per la testa attraverso un lucernario e atterrava senza far rumore in quel paradiso di oggetti dimenticati. Il posto era sempre in penombra, protetto dall'usura del tempo come una piramide suggellata. Lì si ammucchiavano i mobili disfatti, ferri di uso incomprensibile, macchine sconquassate, pezzi di covadonga, l'automobile preistorica che i suoi zii avevano smontato per trasformarla in un veicolo da corsa e aveva finito i suoi giorni trasformati in un rottame. Tutto serviva ad Alba per costruirsi rifugi negli angoli. C'erano bauli e valigie con abiti antichi che usava per organizzare i suoi solitari spettacoli teatrali e uno stuoino triste, nero e tarmato con la testa di cane, che messo in terra sembrava una pietosa bestia con le gambe aperte. Era l'ultimo obbrobrioso vestigio del fedele Barrabas. Una notte di Natale, Clara fece a sua nipote un favoloso regalo che più volte era riuscito a rimpiazzare la fascinosa attrazione della cantina. Una scatola con tubetti di colori, pennelli, una piccola scala e l'autorizzazione a usare a suo piacimento la parete più grande della sua stanza. Le servirà per sfogarsi, disse Clara, quando vide Alba in equilibrio sulla scala per dipingere vicino al soffitto un treno pieno di animali. Col passare degli anni, Alba andò riempiendo quella e le altre pareti della sua camera da letto con un immenso affresco in cui, tra una flora marziana e una fauna impossibile di bestie inventate come quelle che ricamava Rosa sulla sua tovaglia e Blanca cuoceva nel suo forno della ceramica, apparivano i desideri, i ricordi, le tristezze e le allegrie della sua infanzia. Le stavano molto vicini i suoi due zii. Jaime era il suo preferito. Era un omaccione peloso che doveva sbarbarsi 2 volte al giorno e anche così sembrava avere sempre la barba lunga. Aveva sopracciglia nere e severe che pettinava all'insù per far credere a sua nipote che era imparentato col diavolo e i capelli erano lisci come uno spazzolone, inutilmente imbrillantinati e sempre umidi. Entrava e usciva con i suoi libri sotto il braccio e una valigetta da idraulico in mano. Aveva detto ad Alba che lavorava come ladro di gioielli e che nell'orribile valigia portava grimaldelli e tirapugni. La bambina faceva finta di spaventarsi, ma sapeva che suo zio era medico e che la valigetta conteneva i ferri del suo mestiere. Avevano inventato giochi di illusionismo per divertirsi nelle serate di pioggia. Porta l'elefante, ordinava lo zio Jaime. Alba usciva e tornava trascinando per una corda invisibile un pachiderma immaginario. Potevano passare una buona mezz'ora a dargli da mangiare erba adatta alla sua specie, a lavarlo con terra per proteggergli la pelle dalle inclemenze del tempo, a lucidare l'avorio delle sue zanne, mentre discutevano calorosamente sui vantaggi e sugli svantaggi di vivere nella foresta. Questa bambina finirà per diventare matta da legare, diceva il senatore Trueba, quando vedeva la piccola Alba seduta nella veranda, intenta a leggere i trattati di medicina che le dava lo zio Jaime. Era l'unica persona della casa che aveva la chiave d'accesso al tunnel di libri dello zio e l'autorizzazione a prenderli e a leggerli. Blanca sosteneva che bisognava graduare la lettura perché c'erano cose che non erano adatte alla sua età, ma lo zio Jaime era del parere che la gente non legge quello che non gli interessa e se gli interessa è perché ha la maturità per farlo. Era dello stesso avviso in quanto al bagno e al mangiare. Diceva che se la bambina non aveva voglia di fare il bagno era perché non ne aveva bisogno e che si doveva dare da mangiare quello che voleva nelle ore in cui aveva fame, perché l'organismo conosce meglio di chiunque le proprie necessità. Su questo punto Blanca era inflessibile e costringeva sua figlia a seguire orari rigidi e norme igieniche. Il risultato era che oltre al mangiare e ai bagni normali, Alba ingoiava le ghiottonerie che suo zio le regalava e si bagnava col tubo da annaffiare ogni volta che aveva caldo, senza che alcuna di queste cose alterasse la sua robusta costituzione. Ad Alba sarebbe piaciuto che suo zio Jaime si fosse sposato con sua mamma, perché era più sicuro averlo per padre che per zio. Ma le avevano spiegato che da quelle unioni incestuose nascono figli anormali. E così si era messa in testa che gli alunni del giovedì nel laboratorio di sua madre fossero figli dello zio. Anche Nicolas stava nel cuore della bambina, ma aveva qualcosa di effimero, di volatile, di affrettato, sempre di passaggio, come se stesse saltando da un'idea all'altra che rendeva Alba inquieta. Aveva 5 anni quando suo zio Nicolas, stanco di evocare Dio sul tavolino a 3 gambe e nel fumo dell'hashish, aveva deciso di andarlo a cercare in una regione meno rozza della sua terra natale. Trascorse 2 mesi importunando Clara, perseguitandola in ogni angolo, sussurrandole nell'orecchio quando era addormentata finché non l'aveva convinta a vendere un anello di brillanti per pagargli il biglietto per la terra del Mahatma Gandhi. Quella volta Esteban Trueba non si era opposto perché aveva pensato che un giro attraverso quella lontana nazione di affamati e di vacche transumanti avrebbe fatto molto bene a suo figlio. Se non muore morso da un cobra o per qualche infezione straniera, spero che torni fatto uomo perché ormai sono stufo delle sue stravaganze, gli disse il padre, salutandolo sul molo. Nicolas visse un anno come un mendicante, percorrendo a piedi i cammini dello yoga, a piedi per l'Himalaya, a piedi per Kathmandu, a piedi per il Gange e a piedi per Benares. E al termine di questo pellegrinaggio aveva la certezza dell'esistenza di Dio e aveva imparato a trafiggersi con spilloni da cappello, le guance e la pelle del petto e a vivere senza quasi mangiare.